Rapito dai corvi, mercoledì 13 aprile. Le oche si erano svegliate all'alba per pascolare prima di intraprendere la traversata dell'Östergötland, ma Nils non trovava niente da mettere sotto i denti. Guardandosi attorno vide degli scoiattoli che giocavano tra gli alberi su una lingua di terra di fronte all'isolotto. Chissà che non avessero ancora un po' di provviste invernali, si chiese e pregò Morten di portarlo tra gli animaletti. Questi però non gli diedero retta, continuarono a trastullarsi, inoltrandosi sempre più nella macchia, e il ragazzo, inseguendoli a un certo punto, sparì alla vista di Morten. A un tratto si sentì afferrare per il colletto. Si volse e si avvide che a ghermirlo era stato un corvo. Tentò di liberarsi, ma accorse subito una femmina di corvo che lo afferrò per una delle calze e lo buttò a terra. Se Nils avesse chiamato subito aiuto, il papero sarebbe accorso a liberarlo, ma il ragazzo pensò di riuscire a cavarsela da solo. Invece, i due corvi ce la fecero a sollevarlo e a portarlo in aria con tanta noncuranza che a un certo punto Nils sbatté il capo contro un ramo e perdette i sensi. Quando rinvenne, i due uccellacci stavano calando verso un meraviglioso tappeto tutto strappi e buchi che luccicavano come cristalli. Nils si rese conto di trovarsi sopra un paesaggio sconosciuto e che i corvi lo stavano portando verso sud-ovest. Il sole infatti calava alle sue spalle e il tappeto di foreste e acque doveva essere dunque lo Småland. Persuaso che gli uccelli lo avessero rapito solo per divertirsi, li pregò di riportarlo dalle oche, ma quelli non se ne dettero per intesi. Planarono in una pineta, deposero Nils ai piedi di una grande conifera e il ragazzo si trovò circondato da 50 corvi che gli puntavano addosso i becchi minacciosi. «Si può sapere, corvacci, che vi piglia? Perché mi avete rapito?» chiese Nils. «Taci, o ti cavo gli occhi!» gridò subito uno degli uccelli e a Nils non restò che obbedire, standosene muto a fissare i corvi che altrettanto muti fissavano lui. E più li guardava, meno gli piacevano. Penne sudice e arruffate, zampe e unghie incrostate di fango secco, avanzi di cibo agli angoli del becco. Uccelli ben diversi dalle oche selvatiche, uccelli dall'aria truce, crudele, avida, feroce e ribalda, da malfattori e vagabondi. «Oh, sono caduto in mano a una banda di briganti», pensò. Proprio in quella udì sopra il suo capo il grido di richiamo delle oche selvatiche. «Dove sei? Sono qui! Dove sei? Sono qui!» E capì che le sue compagne di viaggio lo cercavano. E fece per rispondere, ma il grosso corvo che pareva il capobanda gli sibilò all'orecchio: «Attento ai tuoi occhi!» E non gli restò che starsene zitto. «Devi cavartela da solo, Nils Holgersson», si disse il ragazzo. «Devi mostrare che hai imparato qualcosa da queste settimane di vita selvaggia». I corvi si preparavano a ripartire, portandolo con loro, tant'è che uno l'aveva afferrato per il colletto, un altro per una calza, e il ragazzo chiese: «Non c'è nessuno di voi che sia tanto forte da portarmi in groppa? Mi avete talmente sballottato che mi sento a pezzi. Prometto che non scapperò». Si fece allora avanti un grosso corvo, con una penna bianca a un'ala, il quale disse: «Sarebbe meglio, Ventofretta, che arrivassimo a destinazione con il piccolo uomo intatto, non ti sembra? Me lo prendo io, in groppa». «A se credi di farcela, fumle drumle», rispose il capo, «bada solo di non lasciarlo cadere». I corvi ripartirono verso sud-est attraverso lo Småland. A un tratto Nils udì cantare un merlo che riprendeva di continuo il suo ritornello e allora si portò le mani alla bocca e gridò: «L'abbiamo già udita, cambia musica!» «Chi si beffa del mio canto?» domandò il merlo. E Nils: «Io, preda dei corvi!» Subito Ventofretta si volse ad ammonirlo: «Bada i tuoi occhi, ometto!» Ma tra sé Nils si disse: «Me ne infischio, vi mostrerò che non ho paura di voi!» Penetravano sempre più verso il cuore della regione, null'altro che boschi e laghi. In una radura stava una colomba selvatica e davanti a lei il maschio arruffava le penne, torceva il collo, dondolava la testa, tubava: tu sei la più leggiadra della foresta, tu non c'è nessuna che ti stia alla pari». Sorvolandoli il ragazzo gridò: non credergli. Chi è che mi calunnia?» tubò il colombo di rimando. E Nils: preda dei corvi!» Ventofretta lo guardò con occhio minaccioso, ordinandogli di star zitto, ma Fumle Drum le intervenne. «Lascia perdere, gli uccellini crederanno che siamo diventati socievoli!» «Non sono così stupidi!» ribatté Ventofretta, però l'idea lo lusingava e non zittì più il ragazzo. Sulla banderuola di una villa, sulle rive di un lago, era posato uno storno e fischiava a squarciagola per farsi sentire dalla femmina che covava su un pero. Cantava: «Noi abbiamo piccole uova tonde, quattro piccole uova tonde, abbiamo il nido pieno di uova tonde». «E Nils, il corvo verrà a rubarvele, il corvo verrà a rubarvele!» «Chi è che vuole spaventarmi?» domandò lo storno sbattendo le ali inquieto. «Preda dei corvi!» rispose Nils, e questa volta il capo non gli diede sulla voce, ma anzi la banda sbellicò dalle risate, gracchiando e gracchiando ancora. Sulla sponda di un lago, un'anatra maschio faceva la corte a una femmina, glotterando: «Ti sarò fedele tutta la vita, ti sarò fedele tutta la vita!» «Non durerà neanche sino alla fine dell'estate!» gridò il ragazzo passando. «E l'anatra maschio, chi sei tu che mi calunni?» «Mi chiamo preda dei corvi!» gridò forte Nils di rimando. Verso mezzogiorno i corvi scesero su un prato per pascolare. Fumle Drumle si avvicinò al capo recando nel becco un ramoscello di rosa selvatica con qualche bacca e glielo offrì. Ma Ventofretta ribatté con disprezzo: «Credi forse che io mangi vecchia frutta secca?» «Pensavo di farti un piacere», borbottò Fumle Drumle e buttò stizzito il ramo che cadde ai piedi di Nils, il quale se ne impadronì e placò la propria fame. Mangiato che ebbero, le cornacchie presero a conversare e Ventofretta, che era di buon umore, raccontò: «Mi ricordo di una gallina che viveva da queste parti e che amava moltissimo la sua padrona. Per farle piacere depose tante uova che nascose nel granaio. Le covava e pensava alla gioia della sua padrona quando sarebbero nati i pulcini. La donna era invece preoccupata per l'assenza della gallina. Indovina un po', Beccolungo, chi trovò infine la gallina e le uova?» «Penso proprio di aver capito», rispose l'interpellato. «E adesso vi racconto io un'altra storia. Ricordate la gattona nera del pastore di Hinerid? Era scontenta dei padroni perché le prendevano sempre i piccoli per annegarglieli. Una volta riuscì a nascondere i micini in un pagliaio e non vi dico la sua felicità, ma chi credete che sia stato più felice ancora?» I corvi avevano tutti storie una più crudele dell'altra da spifferare e si toglievano l'un l'altro la parola dicendo questo che aveva ucciso un leprotto, quello che aveva rubato un cucchiaio d'argento, e alla fine Nils non ne poté più di simili discorsi e insorse: «Vergognatevi, corvacci! Ho vissuto 3 settimane tra le oche selvatiche e udito solo parole buone. Cambiate vita, evidentemente avete un perfido capo che vi consiglia male, ma gli uomini ne hanno abbastanza delle vostre prodezze e sono decisi a sterminarvi». A queste parole, Ventofretta e gli altri gli si precipitarono addosso, infuriati, ma Fumle Drumle si levò in sua difesa, dicendo, come se fosse spaventato: «No, no, che direbbe Burrasca se lo ammazzate prima che abbia aperto la pentola?» Così lo lasciarono in pace e poco dopo ripartirono. Il sole stava per tramontare, ma ci si vedeva ancora quando i corvi giunsero alla landa e quando la notizia del loro arrivo con la preda fu nota, vennero al loro incontro centinaia di altri uccellacci con Burrasca in testa. Tra il gracchiare assordante dei saluti e delle congratulazioni, Fumle Drumle bisbigliò a Nils: «Sei stato così gentile durante il viaggio che ti ho preso in simpatia e voglio darti un consiglio. Appena arrivati sarai incaricato di un lavoro per te facilissimo. Guardati bene dall'eseguirlo». Poco dopo, Fumle Drumle depose il ragazzo sul fondo di una grande buca dove Nils si lasciò cadere a terra come se fosse sfinito dalla fatica. I corvi gli svolazzarono attorno battendo le ali con frastuono di tempesta, ma Nils non alzava il capo. «Ometto!» gridò Ventofretta. «Alzati! Devi renderci un piccolo servigio! Una cosa da nulla per te!» Ma Nils non se ne dava per inteso e fingeva di dormire. Ventofretta allora lo afferrò per un braccio e lo trascinò verso una pentola di coccio di forma antiquata in mezzo alla cava. «Alzati, Ometto, e aprila!» Perché non mi lasci dormire un po'? Sono stanchissimo, replicò Nils. Apri la pentola, gridò Ventofretta scuotendolo. Nils esaminò il recipiente e disse: Come potrai aprirla se è più grande di me? E Ventofretta, aprila se ci tieni alla vita. Nils si alzò, barcollò fino alla pentola, tastò il coperchio, allargò le braccia. Sono troppo sfinito per riuscirci. Lasciatemi dormire, domani mi ci proverò. Ma Ventofretta, in preda all'impazienza, gli si scagliò contro, beccandola una gamba. Il ragazzo balzò indietro, estrasse il coltello e gridò: Vieni avanti, se hai il coraggio! Ventofretta era troppo esasperato per cedere. Si precipitò in avanti, proprio sulla punta della lama che gli penetrò nell'occhio e fino al cervello. Ventofretta cadde a terra, sbatté le ali e crepò. Ventofretta è morto! Lo straniero ha ucciso il nostro re! Presero a berciare i corvi e si levarono tutti in aria, questi piangendo, altri esigendo vendetta, tutti roteando attorno al ragazzo, pronti ad avventargliesi contro. Ma Fumle Drumle, fingendosi il solito balordo, gli svolazzava intorno ad ali tese, impedendo che gli si avvicinassero troppo e lo colpissero. Nils si vide a mal partito, si ricordò della pentola di terracotta e, tolto con un violento strappo il coperchio, vi saltò dentro. La pentola però era piena fin quasi all'orlo di monete d'argento e Nils prese a vuotarla per farsi spazio. Alla vista delle monete, i corvi, come d'incanto, si calmarono e si diedero a raccoglierle col becco. E più Nils ne gettava, e più quelli, burrasca in testa, la vedova dell'ucciso, se le contendevano accanitamente. Appena un uccello si era impadronito di una moneta, volava via in gran fretta a nascondere il bottino. Quando non ci furono più monete d'argento, Nils si guardò attorno. Nella cava non era rimasto che Fumle Drumle dalla penna bianca, quello che l'aveva portato in groppa. Mi hai reso un favore assai più grande di quanto tu possa credere, ometto, disse il corpo con voce ben diversa da prima. Voglio salvarti la vita. Montami in groppa e ti porterò in un nascondiglio dove potrai trascorrere la notte al sicuro. Domani cercherò di ricondurti dalle oche selvatiche. La capanna, giovedì 14 aprile. Il mattino seguente Nils si svegliò con l'impressione di essere a casa sua, aspettandosi che la mamma venisse a portargli il caffè e latte. Poi si ricordò di quanto era accaduto la sera prima e rimase a letto ad attendere che Fumle Drumle venisse a prenderlo come aveva promesso. Intanto osservava la stanza. Era piccolissima e spoglia, quasi nuda. A parte una panca addossata a una parete, una tavola, il letto in cui giaceva e un armadio dipinto a vivaci colori. Tutto era piccolo, tanto da sembrare quasi quasi più adatto a esseri come lui che a persone di statura normale. Evidentemente i padroni di casa avevano pensato di tornarci, non mancavano nel focolare una caffettiera e una padella. C'era la biancheria da letto, a un gancio di ferro pendevano gallette. Erano vecchie, in parte muffite, ma erano pur sempre pane. E Nils prese a divorarle come se fossero il cibo più buono del mondo. Poi si guardò intorno per vedere se c'era qualcos'altro di utile, ma tutto era troppo grande e pesante per lui. L'unica cosa che poté prendere furono dei fiammiferi che stavano sul tavolo. Stava infilandoseli in tasca quando dalla finestra entrò Fumle Drumle che si posò sul tavolo accanto a lui e si scusò del ritardo. Avevano dovuto eleggere un successore di Ventofretta, spiegò. E chi avete scelto? Chiese Nils. Uno che non permetterà più né il brigantaggio né il furto. È stato eletto Garm Penna Bianca, un tempo chiamato Fumle Drumle, rispose il corvo, drizzandosi tutto fiero. Ottima scelta per davvero, esclamò Nils. Congratulazioni. In quella udì sotto la finestra una voce che gli parve di riconoscere. È proprio là dentro? Chiedeva a Smirre il volpone. Sì, è lì che il piccolo uomo si è nascosto, rispose la voce di un corvo. Attento, ometto, bisbigliò Garm. Fuori c'è Burrasca con la volpe che vuole mangiarti. Non fece in tempo ad aggiungere altro, la volpe si era gettata contro la finestra e il telaio vecchio e tarlato cedette. Garm non ebbe il tempo di mettersi in salvo, Smirre lo spacciò con un morso. Quindi balzò dalla tavola a terra per liquidare anche Nils, che ne era balzato giù per rintanarsi dietro a un fascio di stoppa, ma Nils non era del tutto privo di armi. Accese un fiammifero, incendiò la stoppa, la lanciò contro il volpone che in preda al terrore mandò un urlo e balzò fuori dalla finestra. Nils però era caduto dalla padella nella brace. Le fiamme avevano avvolto le cortine del letto, la capanna era ormai piena di fumo e Smirre, riaffacciatosi alla finestra, rideva beffardo. Ehi là, nanerottolo! Che cosa preferisci, finire arrosto o farti mangiare da me? Io preferirei divorarti, ma l'importante è che tu crepi. L'incendio ormai divampava. Nils cercò rifugio nel focolare e in quella udì il rumore di una chiave infilata nella toppa. Uomini! A quel pensiero non provò paura, ma sollievo. Vide entrare due ragazzi e subito corse loro incontro, dimentico di Smirre, della capanna in fiamme e della sua statura ridotta. Aveva riconosciuto Åsa e Mats, i due piccoli guardiani d'oche. A Nils Holgersson pareva di essere con loro a Vestvemmenhög, in un campo di stoppie, e gridò gioioso: «Buongiorno, Åsa! Buongiorno, Mats!» Alla vista dell'ometto, i due si ritrassero impauriti e Nils si riscosse dalla sua illusione, di colpo memore della sua condizione, e ne provò una tale vergogna che si volse e fuggì senza sapere nemmeno lui dove. Ma sulla landa intravide qualcosa di bianco. Era Morten, l'ocone, accompagnato dall'ochetta grigia. E il papero, vedendo Nils darsi la gamba, lo credette inseguito da nemici pericolosi. In fretta lo afferrò col becco, se lo buttò in groppa e si involò a tutta velocità. La vecchia contadina, giovedì 14 aprile. Era sera tarda, ma tre viaggiatori stanchi erano ancora in cerca di un ricovero per la notte in una zona solitaria dello Småland settentrionale. Il guaio era che due dei tre, dopo il tramonto, non erano in grado di resistere al sonno e il terzo, l'unico capace di restare sveglio anche di notte, era assai preoccupato. Un paese, quello in cui laghi e paludi erano ancora ricoperti di ghiaccio, per cui Smirre il volpone poteva avvicinarsi a loro senza difficoltà. Finalmente, quando ormai era così buio che quasi non ci si vedeva più, arrivarono a un casolare sperduto che sembrava disabitato. Non un filo di fumo dal camino, nessuna luce che filtrasse dalle finestre. Qualche istante dopo, tutti e tre erano sull'aia deserta. Due dei viaggiatori si addormentarono di colpo, mentre il terzo esplorava inquieto i dintorni. La fattoria era grande, con stalle, granai, rimesse, fienili. Ma tutto era in stato di abbandono. Gli edifici avevano i muri grigi coperti di muschio e diroccati, i tetti erano semicrollati, gli usci penzolavano dai cardini divelti. Il viaggiatore tirò un sospiro di sollievo, svegliò i suoi compagni e li condusse alla stalla dove pensava sarebbero stati al sicuro, ma aveva appena spinto l'uscio che si udì una vacca mugire. «Ti decidi finalmente a portarmi da mangiare, padrona?» I viaggiatori si fermarono sulla soglia perplessi e timorosi. Ma visto che c'era una sola mucca e qualche pollo, il primo riprese coraggio. Spiegò che erano tre poveri pellegrini in cerca di asilo notturno dove non potessero sorprenderli né la volpe né gli uomini. La mucca assicurò che la volpe non si era mai vista da quelle parti e che c'era un'unica contadina vecchia e troppo debole per acchiappare qualsiasi cosa. Nils, perché era proprio lui, soggiunse di essere stato rimpicciolito da un incantesimo e di avere con sé un'oca domestica e un'oca selvatica, e la mucca diede loro il benvenuto. Ma di dormire non ci fu verso. La povera vacca, che non aveva ancora mangiato, non faceva che agitarsi, scuotendo la catena e muggendo per la fame, e Nils riandava con la mente agli avvenimenti degli ultimi giorni, l'incendio della capanna e che dolore dovevano averne provato Åsa e Mats e la miserevole fine di Fumledrumle che aveva fatto di tutto per salvarlo. Morten gli aveva raccontato come era riuscito a rintracciarlo. Hak aveva ordinato alle oche di disperdersi volando a coppie in ogni direzione per ritrovarsi, dopo 2 giorni di ricerca, su un'altura dello Småland settentrionale, il Monte Ta. E Morten, partito con piuma fina, aveva incontrato un colombo, uno stornello e un'anatra che si lamentavano di essere stati derisi e interrotti nei loro canti da uno che si chiamava Preda dei Corvi. E così avevano ritrovato Nils e l'avevano portato in salvo, ma Il percorso per il Montetà era lungo, l'oscurità li aveva sorpresi prima che vi fossero arrivati. «Domani le nostre prove saranno finite», si diceva Nils, cercando un po' di calore tra la paglia. In quella, la mucca tornò a rivolgergli la parola. «Uno di voi è un coboldo, vero? Se è così potrebbe aiutarmi!» E continuò dicendo di non essere stata monta né foraggiata e che la vecchia massaia, affacciatasi sul far della sera, si era sentita male e non si era più fatta viva. Nils accettò di toglierle la catena dal collo perché potesse andare ad abbeverarsi da sola e di salire sul fienile per buttarle giù da mangiare. Così fu fatto e quando la mucca ebbe la mangiatoia piena, Nils sperò di poter finalmente dormire, ma la vacca riattaccò chiedendogli un altro favore, andare nella casa di fronte alla stalla a vedere che ne fosse della vecchia contadina. «Mi dispiace, ma non posso», rispose il ragazzo. «Non ho il coraggio di mostrarmi agli esseri umani». «Oh, mica avrai paura di una vecchia inferma», replicò la vacca. «E poi non è necessario che tu entri in casa, basta che guardi dalla fessura dell'uscio». Nils finì per accondiscendere e uscì tra il vento che ululava e la pioggia che scrosciava. 7 gufi stavano appollaiati sul comignolo della casa e le loro strida lamentose davano i brividi. Piccolo com'era, fu scagliato da una raffica in una pozzanghera dove per poco non annegò. E non era finita. Giunto all'uscio restò inorridito. Per terra era distesa una donna dai capelli grigi. Non si muoveva, non gemeva. Il volto era stranamente bianco, come se fosse illuminato dal pallido riflesso di una luna invisibile. E Nils si ricordò che anche suo nonno, da morto, appariva altrettanto cereo. Si ritrasse tremante e tornò nella stalla dove riferì l'accaduto alla mucca. «Ah, la mia vecchia e buona padrona è morta!» sospirò questa. «Tra poco morirò anch'io!» Nils cercò di consolarla, dicendole che altri avrebbero provveduto a lei, ma la vacca replicò che era già 2 volte più vecchia delle sue simili quando vengono abbattute e che inoltre non aveva più voglia di vivere ora che la padrona era morta. Rimase per qualche istante in silenzio, senza mangiare né dormire, e poi, con un sospiro, pregò Nils di andare a chiudere gli occhi e incrociare le braccia sul petto alla vecchia. Nils non disse di no, ma non si mosse. La mucca attese in silenzio, poi riprese a parlare, raccontando al ragazzo com'era stata la vita un tempo nella fattoria. La padrona, forte come un uomo, arava e mieteva, era rimasta vedova, provvedeva da sola ai figli e sperava che quando fossero stati grandi avrebbero potuto avere giorni migliori. Ma i figli, cresciuti, erano stati presi dalla smania dell'avventura ed erano emigrati all'estero, lasciando a casa i nipoti. E la nonna sospirava e pensava: «Ah, quando i miei nipoti saranno grandi, passerò giorni migliori». Ma siccome nello Småland non c'era altra prospettiva che la miseria, anche loro, una volta cresciuti, erano emigrati. E così la nonna era rimasta sola. Era diventata vecchia, debole e curva. Trascurava la fattoria, lasciandola andare in rovina. E un po' alla volta aveva venduto i buoi e le mucche, tranne quell'unica alla quale era particolarmente affezionata. Non voleva farsi aiutare da estranei. Non desiderava più vedersi gente attorno e forse non le dispiaceva che tutto andasse in rovina, visto che non poteva lasciarlo ai figli. Questi continuavano a scriverle perché li raggiungesse all'estero, ma lei non voleva conoscere il lontano paese che glieli aveva strappati, anche se con loro era stato tanto generoso. L'ultima sera era più esausta e tremante del solito, non aveva più nemmeno la forza di mungere. Appoggiata alla mangiatoia, aveva parlato alla mucca di 2 contadini che erano venuti a proporle l'acquisto della palude che occupava buona parte delle sue terre. Intendevano prosciugarla e coltivarla, e la vecchia diceva: «Hai sentito, Rossa? Hai sentito? Dicono che nella palude può crescere il frumento. Voglio scrivere subito ai ragazzi perché ritornino. Non avranno più bisogno di lavorare all'estero. Potranno guadagnarsi il pane qui a casa». E per scrivere la lettera era rientrata in casa. Nils non ascoltò il resto. Corse nella casa che prima gli aveva messo tanta paura addosso, entrò per la gattaiola, trovò dei fiammiferi e accese delle candele, perché così si onorano i defunti. Poi si accostò alla morta, le chiuse gli occhi, le piegò le braccia in croce sul petto, ne liberò la fronte dai candidi capelli. La morta non gli faceva nessuna impressione. Trovò il libro delle preghiere e ne recitò più di una a voce bassa. E intanto il pensiero gli correva a sua madre e a suo padre e si chiedeva se soffrissero per lui come quella povera vecchia madre. Dal monte Ta'a'uskvarna, venerdì 15 aprile. Nils vegliò accanto alla defunta tutta notte. Verso mattina si addormentò e sognò i genitori, entrambi assai diversi da come li ricordava, con i capelli bianchi e il volto tutto rughe. Chiese loro la ragione di quel cambiamento e gli risposero che erano invecchiati per il dolore della sua assenza. Ne rimase commosso e meravigliato, perché aveva sempre creduto che fossero contenti di essersi sbarazzati di lui. Diede da mangiare alla mucca, la consigliò di recarsi alla fattoria più vicina. I contadini avrebbero indovinato che la contadina era morta e sarebbero venuti a seppellirla. Poi, con morte né piuma fina, riprese il viaggio. Ben presto giunsero a un'alta montagna con i fianchi quasi a picco e la sommità piatta e compresero che doveva trattarsi del monte Ta. Sulla cima li aspettavano Acca e le altre oche, che li accolsero con grida di giubilo e grandi sbattiti d'ali. La foresta risaliva lungo i fianchi del monte, ma la sommità era nuda e di lassù lo sguardo spaziava per lungo tratto tutto intorno, fino al lago Vättern, gelato e scintillante come se invece d'acqua fosse fatto di luce, fino alla città di Jönköping che si stagliava azzurrina al limite dell'orizzonte. Il giorno dopo ripresero il viaggio e ovunque passassero, sotto di loro, tutti gli esseri umani interrompevano il lavoro per seguirne il volo. I primi che incontrarono furono i minatori della miniera di rame del Monte Ta, i quali smisero di scavare la roccia e uno di loro gridò «Dove andate? Dove andate?» Le oche non capivano quello che dicevano, ma Nils si sporse e rispose «Andiamo dove non ci sono né picconi né martelli!» I minatori credettero che fosse la nostalgia che avevano in cuore a far loro udire le grida delle oche come una voce umana e implorarono «Prendeteci con voi! Prendeteci con voi!» E Nils di rimando «Quest'anno no! Quest'anno no!» La città di Jönköping sorge con le sue grandi fabbriche sulla lingua di terra che separa il lago Vättern dal Munk. Il riposo di mezzogiorno era finito e gruppi di operai s'affollavano all'ingresso della cartiera. Udendo le oche si fermarono e chiesero «Dove andate? Dove andate?» E Nils «Dove non ci sono né macchine né caldaie». E gli operai credettero di udire la voce della loro nostalgia e implorarono «Prendeteci con voi! Prendeteci con voi!» E Nils di rimando «Quest'anno no! Quest'anno no!» Passarono sulla celebre fabbrica di fiammiferi, sulla riva del lago Vättern, grande come una fortezza e con altissime ciminiere. I vasti cortili erano deserti, ma le ragazze, intente a riempire le scatole di fiammiferi, avevano lasciata aperta una finestra e, udendo le oche, una si sporse con una scatoletta in mano e gridò «Dove andate? Dove andate?» «Nel paese dove non c'è bisogno né di luce né di fiammiferi», rispose Nils. «Oh, prendeteci con voi! Prendeteci con voi!» «Quest'anno no! Quest'anno no!» gridò Nils di rimando. Passarono sopra i giardini pubblici di Jönköping, dove sorge il busto di bronzo del poeta Viktor Rydberg, e le oche udirono una voce che domandava «Dove andate? Dove andate?» «In una terra dove non ci sono né strade né piazze!» rispose Nils. «Prendetemi con voi! Oh, prendetemi con voi!» gridò la voce, così forte che pareva uscisse da una gola di bronzo. «Quest'anno no! Quest'anno no!» Volando lungo le rive del lago Vättern, passarono sopra il sanatorio di Sanna. Alcuni dei malati di petto che vi erano ricoverati stavano sulla veranda a respirare l'aria di primavera. Udirono le oche e uno di loro chiese, con voce così debole che la si udiva appena: «Dove andate? Dove andate?» «Nel paese in cui non ci sono né dolore né sofferenza», rispose Nils. «Prendeteci con voi! Prendeteci con voi!» «Quest'anno no! Quest'anno no!» rispose Nils. Poco dopo, lo stormo arrivò a Huskvarna, che è situata in una valle circondata da aspre montagne, dove un torrente scorre con numerosi salti e cascate. Ai piedi del monte sorgono stabilimenti e fabbriche, e nella valle le linde casette degli operai con in mezzo la scuola. Una folla di bambini ne usciva in quel momento e, udendo le oche, gridarono: «Dove andate? Dove andate?» «In un luogo dove non ci sono né libri né lezioni», rispose il ragazzo. «Oh, portateci con voi! Portateci con voi!» «Quest'anno no! Quest'anno no! Forse il prossimo!» rispose Neil. «Quest'anno no! Forse il prossimo!» Il richiamo. Domenica 17 aprile. Al tempo in cui Nils faceva il suo viaggio con le oche, nel lago Tokern viveva un'anatra selvatica a nome Jarro. Il Tokern, oltre a essere il più vasto lago della piana dell'Östergötland, è quello che offre il miglior rifugio agli uccelli. Per quanto tempo ancora non si sa, perché gli uomini non dimenticano che il lago copre una vastissima area di terra fertile e di tanto in tanto qualcuno rinnova la proposta di prosciugarlo. Jarro era ancora molto giovane, contava soltanto un'estate, un autunno e un inverno, e quella era la prima sua primavera. Era tornato troppo presto dalle coste dell'Africa e al suo arrivo aveva trovato il lago interamente coperto di ghiaccio, troppo debole per proseguire il viaggio. Dopo aver svolazzato a lungo nei dintorni in cerca di cibo, era caduto esausto ed era stato raccolto e portato in casa dal figlio di un massaro vicino. Ben presto Jarro si rimise in forze, tanto da poter svolazzare per la stanza. La padrona lo coccolò a lungo e il figlio del massaro andò in cortile a strappare i primi ciuffi di erba novella. Jarro era bellissimo, col capo verde, il collare bianco, il dorso bruno, le ali azzurre. La padrona gli legò le ali perché non potesse volare via e lo mise in un cestino. E il figlio del massaro vicino lo portò al lago Tokern. Entrò col cestino in una barca e la spinse verso il largo. Jarro si era ormai abituato alla presenza degli uomini e sapeva che da loro non aveva nulla da temere. Disse al cane Cesare, anche lui in barca: «Sapessi come sono riconoscente al figlio del massaro che mi porta a passeggio sul lago. Ma farebbe meglio a non impedirmi completamente il movimento, perché non ho nessuna intenzione di volarmene via.» Cesare, il cane, non rispose. Quel mattino non era in vena di chiacchiere. Ciò che Jarro trovava alquanto strano era che il figlio del massaro avesse portato il fucile. Non poteva neppure immaginare che quelle brave persone della fattoria avessero intenzione di sparare agli uccelli. E poi Cesare gli aveva detto che in quel periodo dell'anno gli uomini non cacciavano. Nel frattempo, il giovane era giunto a un'isoletta ricoperta di giunchi. Sbarcò, si costruì un riparo di canne secche in cui s'acquattò. Jarro venne estratto dal cestino e attaccato alla barca con una lunga corda. All'improvviso comparvero alcune delle giovani anatre in compagnia delle quali aveva in precedenza percorso il lago in tutti i sensi. Erano ancora lontane, ma Jarro le chiamò con forti grida. Le anatre gli risposero e si avvicinarono numerose all'isola. Prima ancora che gli fossero intorno, Jarro cominciò a raccontare del suo miracoloso salvataggio e della bontà degli uomini. Ma all'improvviso, dietro di lui, risuonarono tre colpi di fucile e tre anatre piombarono nel canneto. Allora Jarro comprese. Gli uomini l'avevano salvato per usarlo come richiamo. E l'espediente aveva avuto successo. Tre anatre erano morte per colpa sua. Ne provò una vergogna tale che avrebbe voluto morire. E gli parve che Cesare lo guardasse con disprezzo. E quando tornarono a casa, non osò più dormirgli accanto. La mattina dopo Jarro venne riportato sull'isolotto, ma quando altre anatre comparvero si mise a strillare: «Andatevene! Andatevene! State attente! Volate altrove! Tra i giunchi è nascosto un cacciatore e io servo unicamente da richiamo!» Riuscì così a impedire che le anatre giungessero a tiro. Appena una s'accostava, Jarro mandava il suo grido d'allarme, avvisando del pericolo anche gli smerghi, che pure avevano scacciato le anatre dai loro ricoveri migliori. Nessuno morì quel giorno e il cacciatore tornò a casa senza aver sparato un colpo. Quanto a Cesare, aveva l'aria meno tetra del giorno prima e la sera prese Jarro in bocca e lo portò presso il focolare perché dormisse tra le sue zampe. Un giorno, che come al solito fungeva da richiamo sul lago, scorse un nido di smergo galleggiare sull'acqua. Il nido andava avvicinandosi all'isolotto come se fosse guidato da qualcuno e Jarro, quando gli fu vicino, vide un omino che remava con due rametti e che gli gridò: «Avvicinati all'acqua più che puoi, Jarro, e tienti pronto a volar via, presto sarai libero!» Il minuscolo rematore non uscì dal nido quando questo s'accostò a riva, ma si tenne nascosto tra le canne. Per un po' Jarro fu come paralizzato all'idea di essere libero e di fuggire alla sua triste sorte. Ma sul lago volava uno stormo di oche selvatiche e Jarro recuperò la prontezza di spirito e a gran voce le avvertì del pericolo. Le oche volavano molto alte, fuori tiro, e tuttavia il cacciatore non seppe resistere alla tentazione di sparare parecchi colpi. Ne approfittò l'ometto per balzare a terra, cavare di tasca un coltellino e tagliare le cordicelle che impastoiavano Jarro. «Via!» gli disse. «Scappa prima che l'uomo ricarichi il fucile!» Il cacciatore, che teneva d'occhio le oche, non se ne accorse, ma Cesare, nel momento in cui Jarro apriva le ali, spiccò un balzo e lo afferrò per la collottola. Jarro cacciò un grido e l'ometto disse: «Se i tuoi sentimenti sono nobili quanto il tuo aspetto, non costringere un povero uccello a portarne altri alla morte!» Il cane sogghignò, arricciando il labbro superiore, ma lasciò andare Jarro e gli disse: «Vattene! Non sei proprio fatto per fungere da richiamo, e non volevo trattenerti perché tu continuassi a esserlo, ma perché la casa mi sembrerà vuota senza di te.»